Europa 24. In primo piano la crisi ucraina. Oggi il presidente francese Hollande e la cancelliera Angela Merkel sono a colloquio con il presidente russo Vladimir Putin. Si tratta di impegnarsi per gli interessi franco-tedeschi, ma anche quelli dell'Europa. Si tratta della pace europea, ha dichiarato la Merkel. Domenica invece dovrebbe tenersi l'incontro fra il capo della diplomazia europea Federica Mogherini e il ministro degli esteri russo Lavrov, a margine della conferenza sulla sicurezza di Monaco. Dopo il viaggio di ieri a Kiev, il presidente francese François Hollande e la cancelliera Angela Merkel saranno oggi a Mosca per discutere con il presidente russo Vladimir Putin del futuro dell'Ucraina. L'ultima spiaggia prima di una guerra aperta nell'estremo oriente dell'Europa? L'ambasciatore russo a Parigi, intervistato dalla radio francese Europe 1, lo ha lasciato intendere. Non è chiaro quale sarà la proposta di accordo che l'establishment europeo sta portando a Mosca. Diplomatici qui a Bruxelles parlano di una qualche forma di federalizzazione del paese che permetta una convivenza tra russi e ucraini. Il clima è reso difficile dalle recenti scelte della NATO, oltre naturalmente che dalle tensioni in Ucraina orientale tra truppe nazionaliste e comunità russofona. Ieri l'alleanza militare ha annunciato la creazione di una forza di intervento rapido di circa 5.000 uomini e di 6 centri di comando in 6 paesi dell'est Europa. Decisioni di natura difensiva, ha detto il segretario generale della NATO Jens Stoltenberg, ma che certamente a Mosca vengono percepite con preoccupazione, se non con crescente malessere. Beda Romano, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Bruxelles. Intanto altre 19 persone stanno per essere inserite nella lista nera delle sanzioni applicate dall'Unione Europea in seguito alla crisi in Ucraina. Tra queste ci sarebbero anche 5 russi. La decisione verrà ratificata dal Consiglio dei Ministri degli Esteri del 28, che si terrà lunedì. La Commissione europea ha chiuso definitivamente l'inchiesta sulla partecipazione di Poste all'aumento di capitale all'Italia avviata nell'ottobre 2013 nel quadro dell'applicazione delle regole sugli aiuti di Stato. Bruxelles fa sapere di aver verificato che Poste, sottoscrivendo l'aumento per 75 milioni, si è comportata come un investitore privato. Questa mattina in molte piazze italiane gli allevatori hanno manifestato per richiamare l'attenzione sui prezzi del latte in caduta libera. Il 1 aprile termina in Europa il regime delle quote latte. Il mercato torna libero e gli allevatori temono un ulteriore calo dei prezzi. Oggi un litro di latte viene pagato 36 centesimi alle stalle. Il 40% del latte utilizzato in Italia viene importato a prezzi ancora più bassi. L'Unione potrebbe intervenire, dice il ministro per le politiche agricole Maurizio Martina. L'Italia si deve preparare a questa svolta. L'Europa deve battere un colpo. Noi l'abbiamo chiesto insistentemente in questi 6 mesi, in particolare in questi 6 ultimi mesi, quando con la Presidenza più volte abbiamo chiesto alla Commissione di concretizzare alcuni strumenti di uscita morbida da questa situazione. Il dato evidente è che noi non possiamo privarci delle nostre stalle, del nostro latte. Sentiamo invece ora il presidente di Coldiretti, Roberto Moncalvo. L'Europa ovviamente è in qualche modo garante di tutti i processi normativi per dare trasparenza nella filiera e in particolare sull'origine in etichetta e sulla tracciabilità delle produzioni. Però anche l'Europa sta, seppur troppo lentamente, dando dei segnali nuovi. Proprio in questi giorni si sta chiudendo una consultazione pubblica sul sito del Ministero delle Politiche Agricole, che sarà un elemento fondamentale perché consentirà al nostro Paese finalmente di attivare dei nuovi percorsi sull'etichettatura e sulla tracciabilità delle produzioni, pur rimanendo dentro i limiti del nuovo regolamento comunitario sulla tracciabilità delle produzioni, che è appena entrato in vigore lo scorso 13 dicembre. Il diritto all'oblio va limitato all'Unione Europea, e questo è il succo delle conclusioni del rapporto del comitato di esperti incaricato da Google di esaminare gli effetti della sentenza della Corte di Giustizia Europea del 13 maggio 2014, che, come ricorderete, ha sancito il diritto dei cittadini europei di chiedere l'eliminazione di link giudicati inadeguati o irrilevanti. Google ha rimosso oltre 200.000 link. Ed era l'ultima notizia di Europa 24. Un saluto da Maria Piera Ceci. Europa 24, in collaborazione con Euronet Plus.